Cioè, non ho mai capito cos'è. Cioè, tu non hai mai capito cos'è mai cosa. Tanto non l'hai mai una vista. Scatola. È una scatoletta. La apri, tac, tira, dov'è? Tira, dov'è? Tira la roba vera. Tira. Ecco. E c'è la musichetta. E poi quando fai così. Chiude. Perché? Non era finito il ritornello. Gummy bear. Gummy bear. Gummy bear. Gummy bear. Gummy bear. Wow. Adesso se schiacci poi si spegne, vedi? Credo asilo. No, ma no, ma le strisce blu sono arrivate anche da me. Le strisce blu, cosa stai dicendo? Le strisce blu, i parcheggi a pagamento, 80 centesimi all'ora per stare fermo, tra l'altro. Cioè, possedere la macchina oggi mi costa, ho fatto il conto, la bellezza di 80 centesimi all'ora. Certo, un conto difficile. Conto. Però io pago 50 euro al mese per il posto auto, sono quasi 2 euro al giorno per tenere la macchina comunque ferma. Quindi, ho capito, ma io 2 euro li pago in 2 ore e mezza. Ma scusa, ma non ti danno il permesso? Ma non sono residente lì. Non sei residente lì. Sto parlando di dove c'è lo studio, dove lavoro, no? Non dove abito. Allora prova a chiedere se, essendo quella la sede della tua attività di lavoro, ti possono dare un permesso speciale. No, non te lo danno perché la macchina... La macchina deve essere della società, è tutto un casino. Dovrò stare tutto il giorno alla finestra a vedere se arrivano i vigili. Le strisce blu, un incubo contemporaneo. Anzi. L'invasione delle strisce blu. Presto, tenente Drago! Sì, comandante K. Tutti si chiedono che cos'è questo che si è l'enfasi che ci mettiamo come attori, no? Degli anni 50 americani. No, gli anni 50 sono i soldati. Presto, un'intera colonia di temibili e mefitiche strisce blu provenienti dal lontano pianeta del comune di Milano sta dirigendosi verso la Terra. Tenente Drago! Brutta storia. Tenente Drago! Le sembra questo il modo di reagire a una minaccia che potrebbe rivelarsi fatale per il nostro pianeta? Brutta storia! Ma io... Tenente Drago! Attenti! Le strisce blu del comune di Milano sono creature alquanto insidiose. Si installano sull'asfalto e non se ne vanno più. Blu, E prendono il posto delle strisce bianche, che sono nostre alleate e amiche. Bianche e blu. Ma non solo. Poco tempo dopo che le strisce blu prendono possesso del territorio, vengono affiancate da altre abominevoli creature come... le strisce gialle, blu, bianche, gialle, mumble, mumble. E quando arrivano anche le strisce gialle del comune di Milano, significa che è davvero troppo tardi. È troppo tardi. Tenente Drago! Adesso non è ancora troppo tardi. Quindi presto, forza, indossi il giubbotto da stradino e vada a debellare le strisce blu. Il giubbotto da stradino? Quello arancione, tenente Drago. Arancione. Allora! Ma io non ce l'ho, comandante K. Tenente Drago, come sarebbe a dire? È che non ce l'ho. È obbligatorio avere un giubbotto arancione. Lo dice la legge. Ma io... Adesso le faccio la multa. Perché lo dice la legge. Anzi, vedo che ha parcheggiato tra due strisce blu. Quindi le multe sono due blu. E una blu. E due blu. Una per il giubbotto arancione che non è blu. E una per le strisce blu. Ma lo sa qual è il vero problema, comandante K? Che io sono daltonico. Ciao ragazzi! E Pat dov'è? Come non c'è? E dov'è? No! E io come faccio? E che sto a fare qua? Alberto! Mi sembra un carcere, questo asilo è vuoto senza di te. Non riesco a vivere. ricordo quando giocavamo nel cortile e ci inseguivamo uno dietro all'altro, scappavamo con le bici, la merenda a scuola. Ma dov'è finito tutto questo? La solitudine mi fa più male di uno schiaffo, lo sai. Che vita inutile, almeno. Ma dove sei? La nostra teoria della regressione ha trovato una conferma clamorosa dalla Stanford University. Ma quale nostra? La tua teoria? Io sono regredito e contento. Vabbè, dai, solo perché... Regredito e contento, regredito e felice. Questa roba che ti sto dicendo vedrai che ti troverà molto d'accordo. Senti, te la spiego come l'ho capita. Sentiamo. Praticamente la civiltà rende l'uomo stupido. Cioè, l'hai capita così? Beh, sì, da quando l'uomo non deve più combattere per sopravvivere, la sua intelligenza è diminuita e quindi 350.000 anni fa si era molto più intelligenti di adesso, capito? Infatti il computer l'hanno inventato 350.000 anni fa. Ma cosa c'entra il computer adesso? Notoriamente l'uomo di 350.000 anni fa viaggiava nel tempo e nello spazio con l'unico ausilio della sua intelligenza. Ma se la metti così, allora è chiaro. 350.000 anni fa l'uomo era così intelligente che era già arrivato alla conclusione che per far tacere uno che dice solo cazzate come te era solo questione di prendere una clava e... Aia! Aia! Aia, ma basta! Aia! Chiedo asilo! Non ci sono più le democristiane di una volta. Vabbè, in che senso? Non ci sono più le democristiane. Non ci sono più proprio le democristiane. Che ti scaldavano il cuore come la Tina Anselmi. Vabbè, dai, c'era solo la Tina Anselmi, però. Quando si diceva, ma sì, dai, vecchia DC anni 60, 70, 80, nessuna donna c'era. C'era giusto la Tina Anselmi che sicuro adesso ci starà sicuramente ascoltando. Quindi. Ah, salutiamo. Ciao Tina. Vabbè. Comunque, non ci sono più le democristiane di una volta. E si è visto in TV quando Suor Rosy Bindi se l'è presa con la bambina Bianca Berlinguer e l'ha mandata a... Sì. Capito che è caduta di stile. Però non si è sentito, si è visto lei che sbuffava e sembrava dicesse ma vaff. Però non è uscito nessun suono dalla sua bocca e ha fatto una specie di labiale convinta di non essere inquadrata. Però il labiale è già tanto. Cioè, una democristiana di una volta, secondo te, l'avrebbe fatto il labiale? Democristiani, no, quelli facevano di peggio, però dai. Magari non ti mandavano con il labiale, però poi guarda caso saltava in aria un treno, una banca, una stazione. Mancano 10 giorni alla fine del mondo. Che abolia il martedì. Sì, e poi questo countdown 10 a 7 giorni alla fine del mondo non è che migliori la situazione. 17 giorni e sapremo se Giacobbo o Imaia hanno ragione. Giacobbo o Imaia? Ormai è una cosa unica. Giacobbo, Imaia, gli alieni, capito? Che abolia. Ma hai provato con gli energy drink che ti avevo consigliato di farti? Sì, mi sono strafatto gli energy drink per tutto il weekend e anche ieri. E allora è andata bene, no? No, il risultato è che mi hanno sbattuto via di casa. Chi? Mia famiglia, Tito compreso. Ma perché? Abituati ad avermi per casa. Allora già mi sopportano poco di default. Poi stavolta ero tutto impizzato di caffeina, nicotina, bambolina. Sì. E quindi non smettevo di parlare, no? Di cercare il contatto umano, di condividere le mie opinioni con tutti quelli che mi capitavano a tiro, compreso Tito. Parlavo di ballottaggi con Tito. Insomma, si sono coalizzati e mi hanno fatto capire che era meglio se andavo fuori dalle balle finché non mi fossi calmato. Povero. E anche adesso adesso faccio un po' di fatica a calmarmi. C'era la buria una volta. È il taurino. Comunque, contrattempi di un metabolismo ormai trasformato in un esperimento chimico. E nonostante tutta quella roba che hai preso oggi, sei un po' abulico. Martedì. Martedì è abulia. Solo perché è martedì. Anzi, mi è sceso tutto adesso. Ho il down peggiore degli ultimi 20 anni, Drago. Ma dai, comunque il martedì è quasi finito. Sta per finire. Domani sarai di nuovo in gran forma, no? Come no? Avrò la gastrite, il cagotto. Non vedo l'ora.